Sång får tärna mos sorg, sorg, sorg. L'orologio sta scandendo gli ultimi battiti, ultimi attimi, vento contro, morendo una mela, anno su anno sempre più candida, sempre più al sapore di una terra limpida, colpo al cuore sul collo, risolto dolore, microfono guaritore. Sotto il sole, sopra la mia testa, ora limpida, cristallo ripulito, genio della lampada, uscito dal labirinto, respiro del sangue, il cielo si spoglia, il fiore ardito, il sogno mai finito, nascosta, silenziosa nella mia sogna, fiore tra le mani atomico, come il mio cuore, respiro mio, il mio dogma, la regina di ogni mio mito, ma prima fiamma che nel mio cuore regna, amore impossibile, dal cielo cavi candida, sensazione palpabile, fiore bianco del respiro del mondo, emozione incredibile, emozione incredibile, emozione incredibile, amore impossibile, dal cielo cade candida, sensazione palpabile, fiore bianco del respiro del mondo, emozione incredibile, battito per battito, battito per battito, battito per battito nascosta, forse cercavo te, sensazione riemersa, tu la mia ispirazione salvatrice per questa canzone, favola e chiarore, impossibile danza, quindi ora nell'anima, imprendibile, rubata al cielo, su punta di piedi una stella che danza, una stella che danza, una stella che danza, amore folle riardo, pagine questa che dentro mi accorre, amore folle riardi, questa mia pagina che dentro me corre, amore folle riarde, pagina questa che dentro me corre, che dentro me corre, respiro anche il tuo cuore d'assenza, la tua voce d'incanto, tempo d'assenza, scalda il mio cuore d'animo e il mio sguardo infranto, infranto amore, lirica di cuore che avanza, musica eterna, musica eterna, amore impossibile, dal cielo cade candida, sensazione palpabile, fiore bianco del respiro del mondo, emozione incredibile, emozione incredibile, emozione incredibile, amore impossibile, dal cielo cade candida, sensazione palpabile, fiore bianco del respiro del mondo, emozione incredibile, battito per battito, battito per battito, battito per battito nascosta, forse cercavo te, sensazione riemersa, tu la mia ispirazione salvatrice per questa canzone, favola e chiarore, impossibile danza, quindi ora nell'anima, imprendibile, rubata al cielo, su punta di piedi una stella che danza, una stella che danza, una stella che danza, una stella che danza, una stella che danza.